Il punto di Stefano Folli. Stamane Berlusconi e Forza Italia diranno al presidente incaricato che bisogna procedere in fretta con la riforma della legge elettorale, la quale anzi è già in ritardo rispetto al calendario iniziale. Questa è musica per le orecchie di Renzi, che a sua volta vuole accelerare al massimo. Viceversa, nella maggioranza che sosterrà il governo ci sono tante voci che vogliono frenare, collegando la legge elettorale alla più ampia riforma costituzionale che intende abolire il Senato. Tempi molto più lunghi in questo caso e soprattutto nessuna arma in mano a Renzi per minacciare lo scioglimento delle Camere, visto che con l'attuale proporzionale le elezioni creerebbero solo maggiore ingovernabilità. Ecco la partita che si gioca dietro il rito delle consultazioni, dalle quali finora è emerso ciò che sapevamo: il nuovo governo nasce con la stessa maggioranza del precedente governo Letta, con i voti di Alfano decisivi al Senato, a meno di un soccorso berlusconiano che al momento non è verosimile, ma sotto la cenere il fuoco brucia e riguarda proprio la riforma elettorale.